Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io consiglio agli sposi sempre non finire la giornata nella quale avete litigato senza fare la pace, sempre. E per fare la pace non è necessario chiamare alle Nazioni Unite che vengano alla casa a fare la pace, è sufficiente un piccolo gesto. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, magari bastasse, anzi ci vorrebbe, purtroppo, a parte il consiglio e bastasse, in molti casi ci vuole sì l'ONU per mettere in pace certe situazioni. E a proposito di ONU, oggi Renzi ha detto, aspetta che si sposta da un vertice all'altro, oggi era dopo Londra, è passato al vertice tra Unione Africa di Bruxelles, ha detto il nostro è un paese che ha un'idea di se stesso raggrinzita, abbiamo un'idea di noi stessi raggrinzita, un paese che ha paura di mostrare ciò che vale, insomma, continua a ripetere Lorenzi questo, ma siamo il settimo finanziatore dell'ONU, ecco, a proposito di ONU, guidiamo la missione in Libano, il primo paese fornitore di caschi blu, questo ha detto, ecco come c'era questa liaison, questo sottile filo che unisce quello che ha detto il Papa, quello che ha detto Renzi attraverso l'ONU e l'esigenza di pacificazione. Tra poco naturalmente, come sempre, vi racconto qual è stata la giornata di oggi attraverso le notizie principali, poi alcuni temi in particolare da approfondire con gli ospiti. Vi parlerò senz'altro anche di questo blitz con l'arresto di 24 secessionisti veneti. A questo proposito, che cosa ne pensate, visto che parte del Veneto vuole così tanto l'indipendenza, la secessione? Voi sareste favorevoli per il Veneto o per altre ragioni, o preferite un'Italia unita? C'è sempre la pagina Facebook per voi, Effetto Notte, per i vostri messaggi e le vostre opinioni, oppure gli sms al 349-238-6666. Ma partiamo con i titoli. Blitz dei Ross contro i secessionisti veneti, 24 in manette, tra gli indagati anche il leader dei Forconi, la Lega insorge. Pensioni in 7 milioni, cioè il 43% dei pensionati, vivono con meno di 1.000 euro al mese e per la pubblica amministrazione la ministra Madia conferma grande progetto di staffetta generazionale. Renzi promuove l'Italia nella City, a Londra, venite a investire da noi, dice intanto Monti presenta una sua riforma del Senato, Forza Italia spinge sulla legge elettorale ed è notizia di poco fa che Napolitano incontra Berlusconi, c'è proprio un faccia a faccia sull'Italicum. Fisco, parla il direttore dell'agenzia Befera, dal blitz di Cortina recuperati oltre 2 milioni. Immigrazione, la Camera cancella il reato di immigrazione clandestina, depenalizzato anche la coltivazione di marijuana per uso personale. E poi metodo Stamina, a Brescia nuovo stop ai trattamenti. Partiamo quindi dal blitz di oggi contro il gruppo di secessionisti veneti. Sono accusate di terrorismo le 24 persone arrestate all'alba dai carabinieri del Ross in diverse province venete. Obiettivo dell'operazione, coordinata dalla Procura di Brescia, è l'organizzazione secessionista L'Alleanza, un gruppo che secondo gli inquirenti stava progettando azioni violente per ottenere l'indipendenza del Veneto. Intanto la Lega protesta. Sono accusate di terrorismo le 24 persone finite in manette stamattina nel nord Italia. L'operazione coordinata dalla Procura di Brescia ha permesso di sgominare un gruppo secessionista chiamato L'Alleanza, che per gli inquirenti era pronto ad una deriva violenta per ottenere l'indipendenza del Veneto. Fra gli arrestati ci sono il fondatore della Liga Veneta, l'ex parlamentare Franco Rocchetta, e due dei Serenissimi che nel 97 assaltarono il campanile di San Marco a Venezia, un blitz che gli arrestati stavano cercando di replicare utilizzando, proprio come allora, un rudimentale blindato armato con un piccolo cannone. Il mezzo è stato sequestrato in un capannone nel Padovano, così il procuratore capo di Brescia Buonanno. La pericolosità è desumibile anche dal contenuto delle intercettazioni telefoniche, dove si faceva esplicito riferimento ad attività violente anche con il ricorso ad armi leggere. Fra gli indagati c'è anche uno dei leader dei Forconi veneti. Dalle indagini non sarebbero invece emersi collegamenti con partiti politici e movimenti promotori del referendum per l'indipendenza del Veneto. Dura la reazione agli arresti da parte della Lega Nord, che per protesta scenderà in piazza domenica a Verona. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Altro tema centrale di oggi è quello delle pensioni, che non si toccano, così ha ribadito il ministro dell'economia Piercarlo Padoan al termine dell'Ecofin ad Atene. Proprio oggi sono stati diffusi dall'Istat dati importanti, sono 0,1% del totale, circa 11.000 i cosiddetti pensionati d'oro in Italia, 11.000 sono, a fronte di un 46% che riceve meno di 1.000 euro al mese. Vivono di rinunce, stenti, a volte con assegni al limite della sopravvivenza. Sono 7 milioni di pensionati, 4 su 10, che ricevono meno di 1.000 euro al mese. E come sempre, tra i più penalizzati ci sono le donne. A scattare la fotografia del popolo dei pensionati nel 2012 è l'Istat. Pensioni da fame, ma anche pensioni d'oro. 200.000 sono gli assegni sopra i 5.000 euro, 11.000 quelli sopra i 10.000. Una piccola minoranza che però grava e come sulla spesa pensionistica. Nel 2012 è stata in totale di 270,7 miliardi di euro, con un incremento dell'1,8% sull'anno precedente. Sempre nello stesso anno ci sono stati poi 75.000 pensionati in meno a causa della riforma Fornero, che ha innalzato l'età pensionabile. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo dei provvedimenti per la pubblica amministrazione. La ministra per la semplificazione, appunto la pubblica amministrazione, Marianna Madia, in audizione alla Camera oggi ha detto: con risparmi aggiuntivi nella spending review intendo finanziare la staffetta generazionale nella pubblica amministrazione. La ministra ha premesso che i dettagli del piano di revisione della spesa sono in via di definizione, indica tra l'altro una riduzione delle attuali retribuzioni dei più alti dirigenti di ogni amministrazione pubblica, compresi, dice, quelli delle società partecipate, l'organizzazione e l'accorpamento di enti. Adesso parliamo di un provvedimento di oggi, disegno di legge sull'abolizione del reato di clandestinità, che oggi ha avuto il via libera. Sì, definitiva l'abolizione del reato di immigrazione clandestina e la Lega sale sui banchi del governo. Il disegno di legge è quello delle pene alternative al carcere, già mal digerito dal carroccio, ma il cuore è proprio la norma tanto osteggiata dai leghisti. La Camera approva con 332 sì, 104 no, 22 astenuti. Durante la discussione il leghista Massimiliano Fedigra occupa i banchi del governo esponendo cartelli con scritto vergogna. Al presidente di turno dell'Assemblea, il grillino Luigi Di Maio, non resta che prendere provvedimenti. Vi impediremo di dare il diritto di voto agli immigrati. Colleghi, abbandonate i banchi del governo. Bonanno e Fedriga, vi richiamo formalmente. Colleghi, collega Fedriga, abbandoni i banchi del governo. Collega Fedriga, lei è espulso. Allontanate dall'aula il deputato Fedriga, forza. Votano no Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il provvedimento prevede che per i reati punibili con una pena fino a 4 anni si ricorra, per chi non è recidivo, a misure alternative al carcere. Intanto scoppia un'altra protesta leghista. Gianluca Buonanno vuole la spigola mostrata in aula, ma subito interviene il presidente Laura Boldrini. Adesso basta. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso vi ricordate la vicenda del blitz qualche tempo fa della Guardia di Finanza a Cortina? Bene, oltre 2 milioni di euro di incasso per lo Stato sono il risultato di quei controlli a sorpresa di 2 anni fa, appunto a Cortina, in montagna, durante le feste di Natale. Lo ha reso noto oggi il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Il Natale 2012 aveva portato una brutta sorpresa ai negozianti di Cortina. Infatti 163 esercizi commerciali della cittadina ampezzana erano stati visitati non da Babbo Natale, ma dagli uomini delle Fiamme Gialle per controlli a sorpresa anti-evasione. A distanza di 2 anni, il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha reso noti i risultati dell'operazione durante un'audizione al Senato. L'incasso complessivo è stato di oltre 2 milioni di euro, di cui 1,2 milioni da Aires e IRAP, 224 mila euro di IVA e 675 mila euro derivanti da sanzioni. E dei 163 accertamenti, 142 sono già stati definiti. Questo, ha sottolineato Befera, vuol dire che abbiamo mirato bene, quindi nessun blitz ma verifiche mirate. Nel frattempo la macchina del fisco sembra funzionare bene. Secondo Befera il riscosso è passato dai 3,8 miliardi di euro del 2001 ai circa 13,1 miliardi dell'ultimo esercizio. Di pari passo sono cresciuti i rimborsi arrivati lo scorso anno a quasi 13,5 miliardi per 1,5 milioni di famiglie e imprese. Ma l'evasione stimata resta sempre molto alta. Per Befera si tratta di circa 90 miliardi di euro. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo all'estero, in Francia. Anche Ségolène Royal, ex candidata alle presidenziali per 30 anni, poi compagna del presidente Hollande e madre dei suoi 4 figli, è entrata nel nuovo esecutivo francese. Sarà ministra dell'ambiente. Il nuovo responsabile dell'economia è Arnaud Montebourg, fautore del no alla Costituzione europea nel 2005 e nemico del rigore europeo. Il rimpasto annunciato oggi è arrivato dopo il crollo dei socialisti nelle elezioni amministrative. Sono molto onorata, conosco la portata che una tale nomina implica per il risanamento del paese. Poche parole istituzionali per un ritorno, quello di Ségolène Royal, neoministra dell'ambiente, sviluppo sostenibile ed energia del governo francese, che è forse la più evidente novità del governo Valls, voluto dal presidente Hollande, uscito più che malconcio dalle amministrative di domenica scorsa. Michel Sapin, ex ministro del lavoro, assume l'incarico di titolare delle finanze. All'economia andrà il socialista Arnaud Montebourg, incaricato di contrastare la deindustrializzazione del paese. Per la presidente del Front National, Marine Le Pen, la vincitrice delle ultime consultazioni, non ci sono novità di rilievo. Stessi volti, stessa politica e quindi stesso fallimento, le sue chiare parole. Tra politica e gossip, però, risalta soprattutto il ritorno della Royal, compagna per 30 anni del presidente Hollande e madre dei suoi 4 figli. Anna Rita Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E si torna a parlare del metodo Stamina, perché alla vigilia della prima udienza a Torino del processo che vede Davide Vannoni imputato per la tentata truffa alla Regione Piemonte, a Brescia brusco stop ai trattamenti. I medici che a Brescia somministrano il trattamento Stamina mi hanno comunicato che hanno deciso di sospendere la loro collaborazione fino a data da destinarsi. A dirlo è il commissario straordinario degli ospedali civili di Brescia, Ezio Belleri, in audizione in Commissione Sanità al Senato. Belleri ha spiegato che i trattamenti rimarranno sospesi sino a che non si esprimerà il nuovo comitato di esperti nominato dal Ministero della Salute. Siamo molto preoccupati, ha sottolineato il commissario straordinario, per la nostra situazione personale, perché siamo più volte stati minacciati di essere chiamati in giudizio per omicidio colposo o omissione d'atti d'ufficio. L'ospedale bresciano è stato la prima struttura pubblica ad aprire le porte alle infusioni con il discusso metodo elaborato dalla Fondazione Davide Vannoni, finito anche al centro di inchieste penali. Agli ospedali civili sono 36 al momento i pazienti trattati con il metodo Stamina, 147 quelli in lista d'attesa. Un annuncio terribile che viola la legge, ha commentato Marino Andolina, vicepresidente di Stamina Foundation. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ora la cronaca: sarebbe caduto a causa di un cedimento della balaustra del balcone della casa di famiglia nel Varesotto il velista Flavio Favini, che ha riportato gravi traumi. Favini ha alle spalle importanti risultati in diverse competizioni velistiche internazionali, tra le ultime la regata di Geelong in Australia, dove ha vinto l'oro mondiale. Adesso una storia di perso e ritrovato. Due tele firmate da Paul Gauguin e Pierre Bonnard, del valore di svariati milioni di euro, rubate a Londra negli anni 70, sono state ritrovate dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Artistico. Il comandante del reparto operativo del TPC, Antonio Coppola, al microfono di Adriana Fracchia. Un lavoro investigativo e soprattutto di curiosità investigativa, cioè del non fermarsi all'apparenza, anche perché il primo controllo che noi abbiamo fatto è stato quello alla banca dati delle opere d'arte illecitamente trafugate, che è quella che gestiamo noi come carabinieri del TPC per conto del Ministero dei Beni Culturali e del Turismo. In realtà l'accertamento è stato negativo, proprio perché non erano censite la nostra banca dati in quanto rubate a Londra. Quindi è stato veramente un lavoro certosino per capire innanzitutto di che cosa si trattasse, se potessero essere poi degli autentici, quindi un Gauguin e un Bonnard autentico o dei falsi. Nel marzo di quest'anno abbiamo avuto la certezza, insomma, che effettivamente si trattasse proprio di quelle opere che, devo dire, già da un paio di mesi eravamo convinti potessero essere quelle rubate nel 70 a Londra. Ebbene, finita lieto fine, insomma, questa storia. E chiudiamo, a proposito di fine, parlando di calcio, di elezioni europee insieme, perché Barbara Berlusconi conferma l'impegno della famiglia sul Milan e su una possibile candidatura in Forza Italia per l'Europarlamento, glissa dicendo: ne parliamo da domani. Ci tengo anche a ribadire l'impegno della mia famiglia, è un impegno che non vuole e non deve mai mancare. C'è assolutamente l'interesse di continuare a valorizzare questo asset e di continuare a investire nel nostro club. Lady Barbara parla dal suo nuovo trono, la sede del Milan, nel giorno del taglio del nastro rosso e nero. Con quella vocina giovane e il suo tagliorino pastello disegna linee precise. Di tattica e campo parlate con Galliani, con il quale adesso ci sono buoni rapporti. Ma questo, Dipartimento Settore Commerciale, è casa sua. Da amministratore delegato e vicepresidente ha deleghe in tasca. Un club con due teste, caso unico, almeno nel mondo del calcio. Poi non è chiarissimo come una nuova sede e non un nuovo stadio possa essere la tessera bancomat per l'aumento dei ricavi del club e quindi, dice anche questo, per prendere nuovi giocatori. Brioche per il popolo, mangino quelle se non hanno il pane, diceva la regina Maria Antonietta. A proposito di politica, qualcuno chiede pure lumi sul possibile impegno di Lady Barbara. Scenderà in campo? Ne parleremo da domani, risponde. Un domani virtuale, immaginiamo. È un campo sul quale nemmeno Galliani potrà giocare. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore. Direi che con il calcio è più o meno completata la giornata, in sintesi. Adesso vi lascio agli aggiornamenti per chi viaggia, anche per chi non viaggia, insomma, poi è un momento di distrazione. Poi dopo vi ricordo che c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, oppure i messaggi al 349-238-6666. Ne vedo molti su chi preferisce un'Italia unita oppure federale, con vari stati che si scindono, insomma, che sono indipendenti. Tra poco cercherò di avere il tempo di leggerli, ho già letti così con gli occhi. E con un ospite che vi presenterò tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Vedete, pochi secondi, adesso tra poco parleremo appunto dell'arresto oggi di 24 serenissimi, come sono stati definiti. Direte anche voi qual è il vostro parere. Ne parleremo con due ospiti, uno in realtà che ho registrato poco prima della trasmissione perché aveva altri impegni questa sera, e uno invece notissimo che sentirete in diretta tra poco. Ma intanto vi ricordo, come sempre, dopo le pause, quali sono stati i fatti principali della giornata. Berlusconi, notizia di poco fa, va da Napolitano, tensione sulle riforme. Renzi intanto promuove l'Italia nella City, a Londra, venite a investire da noi, dice. Presi nuovi serenissimi, 24 arresti, anche Rocchetta, ex deputato, ha sequestrato un trattore carro armato, e c'è l'ira della Lega di Salvini che dice è una follia. Pensioni, in 7 milioni, cioè il 43% dei pensionati, vivono con meno di 1.000 euro al mese. E per la pubblica amministrazione la ministra Madia conferma grande progetto di staffetta generazionale. Fisco, parla il direttore dell'agenzia Befera, dal blitz di Cortina ha recuperati oltre 2 milioni. Immigrazione, la Camera cancella il reato di immigrazione clandestina, depenalizzata anche la coltivazione di marijuana per uso personale. E per il metodo Stamina, avete sentito, a Brescia c'è stato un nuovo stop ai trattamenti. Ecco, vi dicevo, me l'avevo anticipato all'inizio, il tema con cui inizio questa sera, dopo il riassunto della giornata, è l'operazione che c'è stata oggi dei carabinieri. All'alba di oggi è scattato il blitz dei carabinieri del ROS, del reparto speciale, contro un gruppo separatista ampio, geograficamente variegato, denominato l'Alleanza, accusato di aver messo in atto varie iniziative, anche violente, per ottenere l'indipendenza del Veneto, e non solo, parrebbe. Sequestrato, vi dicevo, anche un carro armato artigianale attrezzato con un cannoncino. L'operazione ordinata dalla Procura di Brescia coinvolge 51 indagati, tra loro anche l'ex deputato Rocchetta, che ora è in custodia cautelare. Sono ipotizzati i reati di terrorismo e fabbricazione di munizioni da guerra. E allora io vorrei adesso far intervenire, salutare, coinvolgere, insomma, il sindaco di Verona, nonché segretario della Liga Veneta, Flavio Tosi. Benvenuto, bentornato Tosi. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Allora Tosi, prima di farle sentire una breve intervista di un altro veneto, colui che ha ispirato poi questo referendum che è stato votato nei giorni scorsi per l'indipendenza del Veneto, le vorrei chiedere così subito che cosa ne pensa di questa operazione di oggi dei carabinieri. Ma che siamo? Quando io l'ho sentita le dirò, ho reagito qua adesso, cioè, mi è venuto da ridere. Dopo pensi che ci sono delle persone arrestate ingiustamente, senza motivo, che stia in piedi, e quindi pensi che hanno fatto poi del male a delle persone, e magari gliene verrà fatto ancora anche prossimamente in fase giudiziaria. Perché in realtà noi siamo un paese che con lo svuota carceri sta discutendo se lasciare in libertà dei delinquenti veri. Dei delinquenti veri sono già in libertà, perché in Italia chi ruba per la prima volta, chi spaccia per la prima volta, chi scippa per la prima volta, comunque è a piede libero. E qui mettiamo in galera delle persone che possono essere alcune persone da bar, qualcun altro magari un po' esaltato ma non pericoloso, qualcuno assolutamente che pericoloso non è, ha delle idee, sono le sue, ma ha solo delle idee che vuole esprimere, e quindi è un'operazione, ripeto, è mezza via fra Stato di Polizia e Repubblica delle Banane. Senta, ma al di là delle banane, ma questo specie di carro armato col cannoncino, che ci devono fare? Ma guardi, da quello che ho visto io, il carro armato col cannoncino è praticamente una ruspetta sulla quale hanno montato una specie di fucile, quindi una cosa che, ripeto, è al limite del risibile dal punto di vista dell'offensività. Io sono un cacciatore, a casa ho quattro fucili, sono molto più pericoloso io del carro armato giocattolo che ha messo in piedi questi. Senta, io, visto che lei è uno dei sindaci, se non il sindaco più amato a seconda dei sondaggi, più amato d'Italia, essendo lei persona amabile, avrà la pazienza, Tosi, spero, di sentire questa intervista di 5 minuti che ho fatto prima della trasmissione, perché l'ospite aveva un altro impegno questa sera, alle invasioni barbariche, è Gianluca Busato, che lei conoscerà senz'altro, certo, che è stato il promotore del referendum per l'indipendenza del Veneto, e poi mi dirà insomma che cosa ne pensa, e sentiamo che cosa dice, poi lo commentiamo. Buonasera a lei e buonasera a tutti i radioascoltatori. Lei è soprattutto conosciuto, famoso, perché è l'ideatore del sito plebiscito.eu, che è il sito dove si è fatto il referendum per l'indipendenza del Veneto, non nei giorni scorsi, Busato? Certo, certo, che ha visto anche un grande consenso, una grande affluenza a favore dell'indipendenza del Veneto. Ma alla fine i voti, siccome ci sono state, lo sa, varie polemiche, quanti sono stati i voti? Hanno votato più di 2.300.000 veneti, con una percentuale di favorevoli all'indipendenza della Repubblica Veneta dell'89,10%, è in corso la certificazione da parte degli osservatori internazionali in questo momento. Poi parleremo di questa cosa degli osservatori internazionali, perché sa che c'è stata anche la polemica col Corriere del Veneto, eccetera. Però rispetto invece alla notizia di oggi di questo blitz delle forze dell'ordine che hanno arrestato 24 secessionisti veneti, no? Un'operazione fatta all'alba, sono finite in manette, come dicevo, diverse persone accusate di terrorismo e diversione. Cosa ne pensa? A me sembra un po' una farsa, devo essere sincero, e mi sospettisce molto la tempistica con cui avviene questo evento. Credo proprio che non ci sia nulla di concreto e che si tratti semplicemente di dei colpi di coda di uno Stato che ormai è arrivato alla frutta, che ha il terrore di vedere interrotto il flusso dei soldi che ruba ai cittadini veneti e ha il terrore di vedere un consenso popolare, democratico, legittimo, come è emerso nel referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo scorsi. E credo che questa inchiesta sia collegata ad orologeria dopo 3 anni che era stata avviata e che avvenga in questo momento la sua finalizzazione proprio per questa ragione. Secondo lei quindi non è vero che volevano ripetere un blitz questi secessionisti come nel 97, no? Nel maggio 97? Guardi, che conquistarono il campanile di San Marco e poi... Allora, non ho certamente avuto il tempo di leggere la documentazione, andremo a leggerla, però dai primi tratti ci sono degli aspetti farseschi, questo mi sembra evidente, perché per esempio è stato coinvolto nell'inchiesta Franco Rocchetta, che è penso la persona più pacifica del mondo, perché pare abbia tenuto dei corsi di storia della Serenissima. Voglio dire, credo che ci siano come minimo degli aspetti di poca serietà e molto sospetti. Ma qui in Veneto c'è una situazione, come dire, di allarme da questo punto di vista, perché si è capito che è in atto un tentativo goffo che trova un'ispirazione secondo noi nelle leve dello Stato e che tra l'altro mirato a frenare il processo di indipendenza, di esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, ma che tra l'altro aveva l'effetto contrario. Busato, senta, però le dicevo prima, questa polemica che c'è stata col Corriere del Veneto e con il suo direttore Alessandro Russello, perché avrebbe affidato il Corriere del Veneto nei giorni scorsi, dopo la fine delle votazioni per il referendum per l'indipendenza del Veneto, avrebbe affidato il conteggio a 3 società diverse, importanti società di conteggio del traffico web, dalle quali sarebbe emerso, dall'analisi di queste società, che in realtà tutti questi voti, oltre 2 milioni, come dice lei, erano in realtà 100.000, non più di 100.000, e secondo i tecnici parecchi sarebbero arrivati dall'estero, in particolare Germania, Spagna, Serbia e un posto d'onore addirittura per il Cile. E dice probabilmente era un meccanismo tipico del web, l'hanno definito bot, cioè dei programmi utilizzati sul web per compiere varie azioni in origine compiute dagli esseri umani, invece poi ripetute evidentemente dal web, dalle macchine. Che cosa risponde? Che sono accuse che fanno sorridere. In realtà queste fonti citate dal Corriere del Veneto sono fonti assolutamente screditate a livello scientifico e tecnico. In questo caso, tra l'altro, la smentita al Corriere del Veneto viene niente di meno che da Repubblica, che ha pubblicato un sondaggio scientifico svolto da Ilvo Diamanti, da Demos, che ha dimostrato come i cittadini veneti in maggioranza abbiano votato proprio nel referendum di indipendenza del Veneto da noi organizzato. E quindi al di là dei conteggi, insomma, c'è un disagio forte evidentemente in Veneto, nel nord-est. Lo scopo di un'eventuale indipendenza del Veneto, che poi bisogna vedere anche a livello costituzionale come possa avvenire, ma l'obiettivo quale sarebbe? Perché vi volete staccare? Chi ha votato? Innanzitutto il percorso avviene secondo il diritto internazionale, per cui noi da questo punto di vista la stessa Costituzione, l'articolo 10, recita che l'ordinamento dello Stato si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute. Noi ci inseriamo in quell'ambito e le motivazioni per cui diciamo l'indipendenza è necessaria sono dovute alla metastasi finanziaria dello Stato italiano, che può trovare una propria stabilizzazione, una propria soluzione anche che vada a risolvere quella che in questo momento è una grave minaccia per l'economia mondiale solo con una responsabilizzazione territoriale. È chiaro quindi che il Veneto, che oggi è tartassato da quello che noi abbiamo definito il peggior inferno fiscale del mondo, che è lo Stato italiano, per risolvere la propria situazione deve rimpossessarsi di quei 20 miliardi di euro sui 70 che ogni anno paga di tasse, che vengono trattenuti dallo Stato e non ritornano sotto nessuna forma nel territorio. Ma io credo che questo processo aiuterà l'Italia. Vede, c'è un concetto: l'Italia ha dato il meglio di sé nella propria storia durante il Rinascimento, quando non esisteva lo Stato italiano. Io sono convinto che una responsabilizzazione territoriale sarà fondamentale. Per questo io sabato prossimo sarò a Cagliari assieme ai miei amici del Partito Sardo d'Azione per aiutarli nella indizione del referendum di indipendenza della Sardegna. Busato, invece brevemente il prossimo passo vostro nel Veneto quale potrebbe essere a questo punto? Beh, nel Veneto sicuramente noi in questo momento abbiamo decretato un periodo di esenzione fiscale totale, per cui partirà un periodo di obiezione fiscale a breve per impedire che venga perpetrato questo furto di nostri soldi e soprattutto per impedire, come dico io usando una parafrasi, di continuare a dare delle dosi di eroina a un tossicodipendente che è lo Stato, che non vuole assolutamente guarire. Tosi ha sentito, allora grazie per la pazienza, insomma appunto Busato non poteva essere in diretta. Lei pensa davvero che agirete con l'esenzione fiscale a breve, Tosi, visto che lei è sindaco di Verona in Veneto? Un discorso sono delle iniziative come quella che ha portato avanti Busato, che comunque servono a livello di battaglia politica verso uno Stato centrale e un Parlamento e un governo che non si rendono conto della situazione drammatica del paese o di alcune parti del paese come il Veneto, dove la produzione privata ovviamente è largamente maggioritaria rispetto al pubblico e quindi dove la crisi si sente di più. E quindi dove le imprese chiudono, dove gli imprenditori si suicidano, dove la situazione è disastrosa. E allora rispetto a uno Stato che è assolutamente miope su questo, a Roma secondo me stanno sulla luna, alcuni non si rendono conto di come va male, di quanto va male le cose, e quindi è giusto fare delle forme di protesta contro uno Stato che non cambia. E quindi l'iniziativa del referendum online va secondo me a questa utilità, cioè far capire allo Stato quanto, al di là che siano 2 milioni e 3, che siano un po' di meno, la metà, comunque è segnale di un grandissimo malessere nei confronti di una situazione che è sempre più insostenibile, dalla disoccupazione alla crisi economica e quant'altro. Dopodiché la esenzione fiscale non è che in maniera autonoma qualcuno decida l'esenzione fiscale, perché il rapporto per quanto riguarda il rapporto del fisco è fra Stato e cittadino, Stato e impresa, e quindi è chiaro che non è che qualcuno può dire a qualcun altro non pagare le tasse, perché poi ne risponde il diretto interessato, sia esso un cittadino o un'impresa. Quello che potrebbero fare, e in questo caso è chiaro che devono essere le istituzioni, per esempio le istituzioni regionali, potrebbe essere quello di trattare con lo Stato centrale dicendo dai anche a noi delle condizioni diverse da un punto di vista della fiscalità, perché io sto in Veneto, sopra di me ho da una parte Friuli Venezia Giulia, dall'altra il Trentino Alto Adige, che hanno delle condizioni fiscali clamorosamente diverse, il Trentino, che sono statuto autonomo, insomma, esatto, questo. Però hanno statuto autonomo, però io devo spiegare ai cittadini veneti che c'è qualcuno che sta un po' meglio di loro, cioè i friulani, e qualcuno che sta molto meglio di loro, cioè il Trentino Alto Adige, e siamo tutti cittadini italiani. E quindi ecco, questo potrebbe essere una negoziazione che possono fare le regioni trattando una maggiore autonomia con lo Stato, anche se non è facile, perché ripeto, lo Stato centrale ha una volontà di conservazione, di non cambiare le cose, che è sempre più evidente. E quindi ricevo dei ripeto, iniziative come quella del referendum online, come quello del referendum che potrebbe indire la Regione Veneto, non avranno l'effetto di secedere, di spaccare il paese, avranno però l'effetto di forzare la mano nei confronti di uno Stato centrale che tende a resistere, a restaurare, a non cambiare. Leggo brevissimamente alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando, poi le voglio fare almeno altre due o tre domande. Nicola e Enzo dicono: da questo paese piuttosto unito o disunito è meglio scappare. Maria dice in realtà anche la Lega, che denuncia tante cose, ha partecipato a questa vergognosa spartizione della politica e della casta. Roccetta dice: credo non sia il momento delle provocazioni, credo sia il momento di parlare magari di maggiori autonomie territoriali, ecco, ha rubato la parola, ma non di parlare di secessione, ma i veneti piuttosto come la pensano, e un po' l'hanno dimostrato con questo referendum, anche se non sono chiari i numeri. Arturo: l'Italia dovrebbe essere più unita contro questa casta politica di ladri, altro che secessione, divide e timpera, è proprio il gioco del potere. Domenico: la nostra Costituzione dice, parla chiaro, detto questo servono più servizi rispetto alle tasse che si pagano. E poi molti altri messaggi. Daniele dice: non lo siamo uniti ma dovremmo esserlo, ma è possibile che non ci sia un briciolo di patriottismo? Insomma, molti altri commenti. Tosi: quindi insomma quello che chiedereste è uno statuto speciale come hanno Trentino e Alto Adige, secondo con il Trentino, allora, Alto Adige e il Friuli. Allora, diciamo, siccome sono, mi piace essere concreto, sì. I numeri dello Stato, so i conti come sono. Allora, è chiaro che io potrei fare demagogia e dire domani mattina voglio essere come Trentino Alto Adige. In Trentino Alto Adige si tiene il 70% di alcune tasse, il 90% di quasi tutte le tasse, e dopodiché con i famosi pacchetti che le province autonome di Trento e Bolzano hanno negoziato via via con i vari governi, in realtà ha un saldo attivo nei confronti dello Stato, cioè non dà nulla allo Stato, ci guadagna pure. È chiaro che una regione come il Veneto, che dà annualmente allo Stato una ventina di miliardi, cioè il netto fra il dare e l'avere è che lo Stato prende dal Veneto una ventina di miliardi, è piuttosto improbabile, anche perché non è che Roma la dice, beh, lo do al Veneto, alla Lombardia no, è chiaro, dovresti darlo al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia, a un po' a tutti quelli che te lo chiedono, con il risultato che dalle casse dello Stato mancherebbero, quando va bene, un 120 se non un 150 miliardi, cioè lo Stato fallisce. Però è anche chiaro che è inammissibile, uno, che ci sia comunque delle popolazioni che hanno dei privilegi che gli altri non hanno, due, che lo Stato continui a sprecare, perché se ci fosse questa tassazione, ma lo Stato fosse virtuoso, ti desse dei servizi e capisci che diversamente non si può fare, ma in realtà ci sono alcune regioni o alcune realtà territoriali dove la politica spreca ancora in maniera ignominiosa. I costi dello Stato centrale che sono fuori controllo. Mi scusi, Tosi, anche la Lega ha partecipato. Ecco, ecco, rispondo anche a questo, perché appunto i messaggi che avete letto sono. Uno, gli rispondo su quando l'ultimo dice ci vuole più patriottismo. Il patriottismo nasce quando ti senti rappresentato dallo Stato e vuoi bene al tuo paese, allora nasce il patriottismo. Se lo Stato lo vedi come un esattore, è difficile che ci sia, e lo dice uno che non è secessionista ma è un convinto federalista. E diciamo, anche la signora che ha mandato il messaggio dicendo anche la Lega c'è stata, è vero, cioè, i messaggi che avete letto sono veramente di buon senso. È vero che la Lega c'è stata, siamo stati tanti anni al governo, eravamo riusciti a portare a casa la devolution, che qualcosina cambiava e quantomeno, e quello lo faceva, aboliva il Senato perché diventava il Senato delle Regioni e diminuiva il numero dei deputati, purtroppo venne affossata la devolution da un referendum promosso dal centro-sinistra, altrimenti oggi il Senato elettivo così com'è non ci sarebbe già più, però è vero che anche noi abbiamo sbagliato, perché quando abbiamo visto, stando al governo per molti anni, che non riuscivamo a portare a casa i cambiamenti che il territorio ci chiedeva e che noi avevamo promesso al territorio, era meglio ritirarsi. Cioè, stare al governo per starci non è sbagliato, tu devi stare al governo se porti a casa i risultati che hai promesso al tuo elettorato, altrimenti è meglio dire mi ritiro e lascio che provi a governare qualcun altro. Tosi, due domande proprio sinteticissime perché abbiamo ancora poco tempo e così la lascio anche andare. Cosa ne pensa dell'abolizione del reato di immigrazione clandestina, brevemente? Ma allora, il reato di immigrazione clandestina nasce per un'esigenza tecnica, appunto con il ministro Maroni ne parlammo lungamente, perché è l'unico modo in questo momento, con la Costituzione italiana, le norme italiane incastrate in quelle europee, per far sì che ci possa essere effettivamente l'espulsione. Perché siccome tu non puoi espellere per violazioni amministrative, devi espellere, puoi espellere per come è l'ordinamento italiano solo a seguito della commissione di un reato. Allora è stato costruito quel reato come dicendo: se io ti ordino di allontanarti e non ti allontani, oppure rientri dopo che ti ho allontanato, in quel caso commetti un reato e quindi, avendo commesso un reato, ti posso espellere. Quindi è stato costruito per poter arrivare all'espulsione. Lo si vuole modificare garantendo comunque il risultato delle espulsioni? Sta bene. In realtà l'impressione è che invece qua si vada esattamente nella direzione opposta, perché quando c'era il ministro Maroni c'erano i respingimenti che fa sempre costantemente la Spagna, perché noi ci prendiamo parole dall'Unione Europea. C'è chi in Italia fa demagogia e uno dovrebbe domandarsi perché dal Nord Africa non provano ad andare in Spagna, che è a un minuto dall'Africa, vero? C'è lo Stretto di Gibilterra e basta, ma non ci vanno perché? Perché la Spagna li respinge, e vengono tutti in Italia perché in Italia il controllo delle frontiere di mare non lo fanno più le motovedette o lo Stato, lo fa il meteo. Quando c'è bel tempo arrivano gli immigrati clandestini, quando c'è mal tempo non arrivano. Uno Stato ridotto a fare il controllo delle frontiere attraverso il meteo vuol dire che appunto è una repubblica delle banane, tornando al ragionamento di prima. Tosi, abbiamo proprio pochi secondi, è vero che si candida alle europee per la Lega Nord, ma soprattutto per portare i voti alla sua Liga Veneta? Beh, allora, è un'ipotesi probabile e appunto il motivo è realmente quello, perché io sono sindaco, il ruolo di sindaco è incompatibile con quello di parlamentare europeo. A me, dovendo scegliere, non rinuncerei mai a fare sindaco della mia città rispetto a fare parlamentare europeo, perché devo fare sindaco, perché lo devo ai cittadini veronesi che mi hanno votato per un programma. Il ruolo di sindaco ti consente di fare le cose, in Parlamento europeo francamente hai meno concretezza nell'affrontarle, quindi il motivo della candidatura è proprio quello, cioè quello di dare una mano al mio movimento, alla Lega Nord e alla Liga Veneta a raccogliere più consensi. Flavio Tosi, io la saluto e la ringrazio, e allora le auguro buona fortuna in questo senso. Grazie di cuore, grazie. Buon lavoro e buona serata. Grazie, a presto. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, ci sono tanti altri messaggi sull'indipendenza veneta, chi è favorevole, chi è contrario, insomma scrive un ascoltatore: indipendenza del Veneto, è pericoloso essere nel giusto quando le autorità costituite hanno torto, e cita Voltaire con questo. Io invece vi cito i fatti principali della giornata. Blitz dei Ross all'alba contro i secessionisti veneti, 24 in manette, tra gli indagati anche il leader dei Forconi. La Lega insorge. Pensioni in 7 milioni, il 43% dei pensionati vivono con meno di 1.000 euro al mese, 11.000 sono invece i cosiddetti pensionati d'oro con assegni anche sopra i 10.000 euro. Renzi promuove l'Italia a Londra, venite a investire da noi, dice. Per il fisco parla il direttore dell'agenzia Befera, dal blitz di Cortina ha recuperati oltre 2 milioni e per l'immigrazione la Camera cancella il reato di immigrazione clandestina. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Adesso invece lo spazio, come sempre, qui Effetto Notte, è dedicato all'Europa. Stiamo facendo passare i vari partiti. Adesso parliamo di Per l'Italia. Sulla vicenda dei Marò ci siamo battuti perché l'Unione Europea riconoscesse che i soldati erano non soltanto italiani ma anche europei. Questo è Potito Salatto, eurodeputato uscente di Per l'Italia, componente della Commissione Esteri. Ricorda uno dei momenti, questo del Marò, insomma, dei suoi impegni quinquennali a Bruxelles. Ai microfoni di Radio 24 Salatto ripercorre la sua esperienza per l'appunto a Bruxelles, che si appresta a lasciare in quanto non ripresenterà la candidatura alle elezioni del 25 maggio. Salatto è stato inoltre vicepresidente dell'intergruppo parlamentare Sky and Space, di cui Vittorio Prodi è presidente. Sky and Space è stato varato a Strasburgo per dare continuità strategica al settore dell'aerospazio, un comparto vitale per l'economia europea e dal valore stimato di oltre 100 miliardi di euro. Allora sentiamo l'intervista di Paolo Panceri a Potito Salatto. Europa 24 notte. Verso le europee. Siamo battuti nella delegazione italiana per cercare di farle comprendere, ed io in particolare, che i due soldati sono italiani, ma sono soprattutto soldati europei di estrazione italiana, e quindi non era un problema che riguardava solo il nostro paese, ma tutta la comunità europea. E devo dire che sono stati 5 anni di grande lavoro. Nell'intergruppo Sky and Space, che è stato affidato grazie al mio intervento all'italiano Prodi, e io sono il vicepresidente vicario, si è occupato in questi anni di tutta la politica spaziale europea e quindi anche degli interessi italiani, delle grandi aziende che operano in quel settore, e per ciò che riguarda anche una migliore efficienza del servizio aereo, con riduzione di CO2, con possibilità di riduzione dei biglietti, contratti diretti non più diagonali, eccetera, eccetera, eccetera. Dal punto di vista politico mi sono dedicato come vicepresidente vicario della delegazione che si occupa di rapporti con l'Iran, cercando di porre paletti sempre più evidenti sui diritti civili ed umani. E poi nell'ultima fase, nel bilancio, siamo stati noi italiani soprattutto a bloccare l'approvazione del bilancio nel Parlamento, chiedendo alla Commissione di riproporre quegli investimenti che erano stati cancellati, una possibilità questa che ci è stata consentita con il Trattato di Lisbona, che consentiva al Parlamento di avere voce in capitolo e incidente su vicende di questo genere della Commissione, cosa che non era nel passato. E lei intende ricandidarsi, e in questo caso quali punti del nuovo programma potrebbe aver messo a punto funzionali alla nuova legislatura europea? Allora, sulla mia candidatura nutro seri dubbi, perché anche se tutti mi dicono che sono dimosso per 72 anni, io ritengo che si debba dare spazio a nuove energie in grado di interpretare una società così cambiata rispetto ai miei ideali e alla mia visione delle cose. Quali suggerimenti programmatici darebbe al suo sostituto, chiamiamolo così? Io ritengo che questa nuova legislatura debba essere costituente. Se non si procede immediatamente a riforme istituzionali e strutturali del Parlamento europeo e dell'Unione europea, non si va da nessuna parte. Io ho fatto presente che non può l'Europa, il Parlamento, la Commissione, il Consiglio chiedere ai Paesi membri riforme strutturali e istituzionali quando noi qui non facciamo alcuna riforma. Va rivista l'elezione diretta del Presidente della Commissione a suffragio universale, vanno indicati i membri commissari fra i deputati parlamentari non designati dai singoli Paesi, vanno rivisti alcuni trattati, quello di Basilea 3, che impone capitalizzazioni enormi alle banche per evitare che ci sia solo quella politica di rigore, ma anche una politica di crescita, se non si vuole che l'Europa prima o poi imploda. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E ancora molti altri messaggi, mentre tra poco passo a un altro tema con un altro ospite sulla questione Veneta, i secessionisti arrestati, eccetera. Laura si esalta, dice 1, 10, 100, 1000, 1 milione di Flavio Tosi, che era ospite poco fa qui a Effetto Notte. Invece adesso ospite è Davide Colombo del Sole 24 Ore. Ciao Davide. Ciao, buonasera a tutti. Caro Davide, qui al di là delle lamentele, delle giuste istanze di tutti, si parla di pensioni. Oggi sono arrivati i dati Istat e secondo questi dati in 7 milioni in Italia, quindi più del 40%, vivono con meno di 1000 euro al mese i pensionati, stiamo parlando di pensionati, la percentuale di pensionati, e poi ci sono quegli 11.000 che invece hanno gli assegni d'oro da oltre 10.000 euro. E poi le donne sono sempre anche quelle che ci rimettono, quando c'è da rimettere, le donne sono quelle che ci rimettono sempre, alcune anche del 30% in meno rispetto agli uomini, no? Come pensioni. Che quadro è questo di questa... È un quadro che è sempre uguale a se stesso anno dopo anno, cioè le pensioni vigenti, le pensioni in essere fotografano quelli che erano gli stipendi in qualche modo di questi ex lavoratori e le loro carriere contributive. Sono pensioni spalmate su una piramide di reddito con una base molto larga, 4 pensionati su 10 percepiscono meno di 1000 euro al mese e sono la fotografia di appunto quello che era un pezzo di mercato del lavoro di diversi anni fa e che aveva una struttura di reddito simile, non solo, ma queste pensioni sono state calcolate col metodo retributivo che era in vigore fino alla riforma della metà degli anni 90 e quindi sono pensioni che riflettono salari modesti, in alcuni casi penso alle pensioni sociali non riflettono affatto salari, in questo quarto di pensionati ci sono anche molte pensioni sociali, con appunto un sistema di calcolo che è anche più generoso di quello contributivo, che sarà quello che farà le pensioni del futuro. Purtroppo, se possiamo dire una cosa di prospettiva, le pensioni future di molti giovani lavoratori che oggi hanno carriere discontinue, che hanno anche dei versamenti contributivi modesti, saranno a loro volta piuttosto leggere. Già. Questo è un problema di prospettiva. Ecco. E non so se tu hai avuto modo di analizzare a fondo il Jobs Act, anche se lo stesso ministro del lavoro Poletti dice insomma cercheremo di fare delle modifiche, questi rinnovi, 8 rinnovi possibili nell'arco di 3 anni, secondo te può precarizzare di più la situazione e quindi poi ripercuotersi anche come spiegavi sulle pensioni poi, no, questa cosa? Ma dunque diciamo il contratto a termine in questo momento è il contratto prevalente, più del 60% delle assunzioni che vengono fatte mese dopo mese è fatta con un contratto a termine. Lì l'idea del governo era di agire su questa forma contrattuale perché è probabilmente quella che potrebbe dare qualche, come dire, volontà in più di assunzione. Vedremo se ciò si verifica. Gli 8 rinnovi saranno, credo, molto probabilmente la materia della mediazione che il ministro dovrà fare con la parte di PD che invece è contraria a questa liberalizzazione o comunque che la trova eccessiva. Probabilmente si scenderà da 8 a 6 proroghe, potrebbe essere un'ipotesi, ma è una trattativa che non solo con l'incontro di stasera, ma anche nei prossimi giorni, credo gli emendamenti si possano presentare fino all'11 aprile e poi il provvedimento andrà in aula alla Camera il 22, entro il 22, per cui c'è ancora margine per una trattativa. Però io credo che vada letta questa misura del decreto insieme con gli altri tipi di strumenti che vengono immaginati nel disegno di legge delega, che è la vera gamba del Job Act. Lì ci sta il contratto a tutele crescenti, lì c'è il salario minimo, lì c'è la riforma degli ammortizzatori sociali, probabilmente, anzi sicuramente lì ci sarà anche un tentativo di ragionamento per cercare di mettere le basi per pensioni future non così fragili, non così basse e che, se così saranno invece, avranno bisogno di un sussidio pubblico aggiuntivo, perché altrimenti ci saranno generazioni di pensionati future che invidieranno quelle basse attuali. Di adesso. È un paradosso, ma invidieranno quelle attuali, insomma. Bene, Davide Colombo, poi abbiamo veramente pochissimi secondi, Padoan oggi, ministro dell'economia, ha detto ma non le toccheremo assolutamente le pensioni, però ci sono ancora dei dettagli da valutare, quindi non so se ha lasciato aperta una porta a possibili tocchi dopo le elezioni europee, non lo so, insomma staremo a vedere nel caso ci aggiorniamo. Va bene, grazie. La spending review vedremo. Ecco, punto. Ciao Davide Colombo, grazie. Ciao, grazie a voi. E adesso invece, sempre il Sole 24 Ore, ma inviato che sta seguendo Renzi da una parte all'altra del mondo, Gerardo Pelosi. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Direi più che da una parte all'altra del mondo, da una parte all'altra della Manica. Giusto. Senti, com'è andata oggi? Più o meno Renzi continua insomma a risollevare l'orgoglio italiano, a dire abbiamo una visione di noi stessi raggrinzita, basta, dobbiamo capire che siamo un paese che vale, eccetera, eccetera. Anche oggi mi sembra che abbia detto nel vertice a Bruxelles dell'Unione Europea, Unione Europea-Africa, più o meno queste cose, no? E che molti in realtà cominciano a essere interessati all'Italia, a investire. Giusto, Gerardo? Sì, anche se l'incontro di oggi in ambasciata questa mattina era con i presidenti più che gli amministratori delegati delle grandi industrie, imprese inglesi, British Petroleum, mondo assicurativo, telefonia, eccetera. E sicuramente sono interessati all'Italia, ma vogliono vedere i fatti e quindi ci sarà sicuramente un nuovo incontro tra 6 mesi con qualche menù un poco più sostanzioso, perché per ora tutti apprezzano il dinamismo, l'energia, ma per esempio i giornalisti del Financial Times hanno lamentato una certa indeterminatezza sui dettagli e sulla sostanza delle riforme. Questo è quello che diciamo criticano un po' tanti anche in Italia. Senti, poi da questo vertice Unione Europea-Africa, Hollande e Merkel, il presidente francese e la cancelliera tedesca, hanno detto Francia e Germania hanno proposto un'alleanza tra Unione Europea e Africa su tre sfide di sicurezza, sviluppo e ambiente. E Renzi ha detto che l'immigrazione, tra l'altro oggi in Italia è stato passato il disegno di legge per l'abolizione del reato di immigrazione clandestina, e lui ha detto, Renzi ha detto, l'immigrazione sarà il focus del nostro semestre, del semestre italiano. Certo, è uno dei problemi che era al centro anche del governo Letta, e con tutto quello che è successo, della tragedia a Lampedusa, dei 300 morti, l'operazione Mare Nostrum, che è assai costosa e che però vede soltanto l'Italia, l'Italia è da sola e c'è soltanto una nave della Slovenia, ma c'è l'assenza totale di Malta, di Grecia, e senza parlare poi della Francia e della Spagna. Quindi occorre in sostanza comunitarizzare questi problemi, perché l'Italia da sola non può far fronte a quella che è una frontiera europea. Sentiamo invece Renzi, che cosa ha detto sulla situazione del Veneto, se riusciamo, non so se è lungo Roberto Scaltritti, altrimenti lo evitiamo, e la terza voce di Renzi dovremmo avere, proviamo. Io sono assolutamente sereno rispetto alla tenuta di ogni tipo di istituzione democratica, e il modo migliore per reggere le istituzioni democratiche è che l'esecutivo non commenti ciò che fa la magistratura. La magistratura fa il suo lavoro, noi abbiamo grandissima fiducia in tutti i tipi di magistratura italiana, e quindi credo che questo sia l'unica risposta possibile. E questo per completare il quadro, sempre Renzi da Bruxelles, appunto sull'arresto dei 24 secessionisti di cui abbiamo parlato anche col sindaco Tosi. Gerardo Pelosi, direi che sinteticamente tutto qua, no? Penso proprio di sì. Grazie Gerardo, buona continuazione allora, buon viaggio anzi, in tutti i sensi. Adesso ci fermiamo come sempre e poi ritorno per ricordarvi quali sono stati i fatti dominanti della giornata.